Ride Above Me, Gabriella Simi, la penultima canzone di questa sera di Suoni d'Estate qui su Radio 1. Ringrazio Umbretta Conti che è stata in regia, Daniele Bruzzese, Giampiero Cacciato alla parte tecnica. Ben ritrovato anche a Daniele, non ci vedevamo da un bel po'. Noi, con il sottoscritto inteso, ci risentiamo domenica mattina dalle 10 alle 13 con Suoni d'Estate Weekend. Però prima di portarvi al GR1 ci ascoltiamo un brano di Gianna Nannini, 2004, album Perle. Questa è una cover scritta l'originale in realtà è scritta da Giovanni Lindo Ferretti nel 1990, si intitola Amandoti. Buona continuazione a tutti, ciao. Assomiglia a ridere nel pianto, RAI, Radio Televisione Italiana, Radio 1. Avvisiamo gli ascoltatori che le trasmissioni proseguono senza interruzioni in modulazione di frequenza sul quarto canale della filodiffusione e in onda media sulle frequenze di Roma, kHz 1107 e di Milano, kHz 900. Signore e signori, buon ascolto dell'inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Giovanni Allevi. Il messaggio si è rivolto a Letta, dal quale si attenderebbe un gesto. Il motivo lo spiega Alfano, intervenuto al meeting di Rimini. Il Popolo della Libertà e il suo leader Silvio Berlusconi.